America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Brisbane in Australia. Mario Platero, fra una decina d'ore cominciano i lavori qui a Brisbane del G20, ma prima di questi lavori voglio raccontarvi della tappa che Barack Obama ha fatto a Myanmar, in Birmania, come la chiamavamo una volta, e dove ha incontrato il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, la voce di uno dei simboli della pace, di un simbolo credo per tutti noi della differenza fra democrazia e autoritarismo. Barack Obama l'ha incontrata dopo la parte multilaterale e bilaterale della sua tappa a Myanmar, dove si è tenuto un vertice ASEAN per la sicurezza asiatica. Nello straccio di un vecchio discorso che vi ho fatto ascoltare di Aung San Suu Kyi, il premio Nobel racconta: non siamo autorizzati a marciare perché i soldati ci sparano, allora provo ad aggirarli, ma sparano anche da quella parte, e allora penso che ci sia una grande differenza quando ci sono due persone, uno con una pistola in mano e l'altro senza. La differenza è che quello senza pistola usa la sua intelligenza, la sua comprensione per trovare una soluzione. Perché vi racconto di questa tappa? Perché fra il G2 di Pechino e il G20 di Brisbane, Myanmar diventa un simbolo delle vere sfide che sono davanti a noi, perché abbiamo celebrato il 25esimo anniversario della caduta del muro di Berlino qualche giorno fa. Ma l'ordine mondiale che si era costituito dopo il 1989 si sta frantumando. Strengthening human rights protections for all of Burma's people is an essential step to realizing the vision we share for the future of this beautiful country. And the United States would continue to do whatever it could to help ensure Burma's success. Ecco, Obama di nuovo a Myanmar ha incontrato il presidente Thein Sein, che è un ex generale. Thein Sein gli ha dato ogni garanzia possibile sulla solidità della democrazia che nel frattempo è stata introdotta a Myanmar, e il presidente però esprime riserve per il processo di riforme dal quale mancano troppi diritti. E dall'altra però il presidente americano in questo discorso ha auspicato, e qui cito le sue parole: il processo democratico qui a Myanmar si sta rafforzando e mi auguro davvero che con le elezioni dell'anno prossimo, le elezioni saranno nel 2015, si potrà passare definitivamente a una democrazia stabile per contribuire all'ordine della regione. Ecco, qui al G20 si parlerà anche di quello che viene prima della crescita, e cioè l'ordine mondiale. Quest'ordine mondiale è sempre più debole, perché un recupero dell'ordine mondiale, la stabilità, alla fine sono i presupposti per poter crescere economicamente. E dalle dure parole di Xi a Pechino, non solo sul New York Times, ma sulla illegittimità della protesta a Hong Kong, oppure le provocazioni che ci sono state per il controllo dell'isola Senkaku contro il Giappone, fino alle provocazioni militari russe in Ucraina, ci rendiamo conto di quanto l'agenda politica del nostro tempo sia complessa e di quanto sia importante che in questo G20 si parli anche e soprattutto di stabilità. Vi racconterò poi lunedì delle conclusioni di questo G20. Vediamo una fotografia di questo gruppo. I 20 membri rappresentano l'85% del PIL mondiale, il 75% della popolazione mondiale. Il summit nasce a livello di capi di Stato e di governo nel 2008, dopo la crisi finanziaria ci si rendeva conto che il G8 non bastava e che ci voleva un gruppo più ampio, bisognava allargare proprio per la gestione dell'ordine mondiale a Cina, Brasile, Sudafrica, India, che sono parte di questo gruppo. E quindi qui a Brisbane ci sono già 4.000 delegati, 3.000 rappresentanti dei media. Il costo, 400 milioni di dollari per organizzarlo per il governo australiano. Ecco, non sono molto ottimista sul fatto che si potranno trovare delle soluzioni reali ai problemi aperti sul campo. Il primo ministro Cameron, il primo ministro britannico, da Canberra ha attaccato poche ore fa Putin per le sue azioni in Ucraina e ha dato un taglio politico. Il primo ministro australiano, Tony Abbott, ha detto che la capacità del G20 di confrontare le sfide economiche globali è chiave per la sua rilevanza futura. Il presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi, racconterà delle sue riforme per la nostra piccola Italia, riforme che cerca di fare fra mille resistenze. L'Asia corre, l'Europa è ferma, non solo l'Italia. A questo punto cambiare, soprattutto da noi, nella vecchia Europa che pensa ancora di essere al centro del mondo, devo dire, è fondamentale, non solo per tornare a crescere, ma anche per dare solidità alle nostre istituzioni e per recuperare credibilità, perché alla stabilità dell'ordine mondiale si contribuisce con la forza economica, non con la debolezza. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, nonostante tutto preferisco essere ottimista, spero che per lunedì mattina potrò essere in grado di darvi delle notizie positive sulla chiusura di questo incontro che durerà tutto il weekend. Nel frattempo, pensando a lunedì mattina, vi lascio con Melanie Fiona, Monday Morning, lunedì mattina. Da Brisbane è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!